So metta is one of the basic practices that the Buddha teaches us. La metta è una delle pratiche di base che ci ha insegnato il Buddha. It's important to finish any vipassana session in daily life with a little metta. È bene terminare una sessione di vipassana nella vita quotidiana con un po' di metta. Because remember, when we're in vipassana, we develop this quality of equanimity. Perché ricordate, quando siamo nella vipassana, noi sviluppiamo questa qualità dell'equanimità. Which creates within us this distance, you know, just watching, just feeling, just experiencing. Che crea dentro di noi una certa distanza, perché il solo semplice guardare, semplice udire o percepire. And the danger is that we don't re-engage in life in a full way. Il problema è che poi non ci rimettiamo in gioco, non ci riimpegniamo nella vita in un modo completo. We remain too much the observer, and so the equanimity begins to corrupt into indifference. Rimaniamo solo in una posizione di osservatore, e quindi l'equanimità corre il rischio di trasformarsi in indifferenza. So the metta first of all takes us back into the body and into this form and then out into the world. Quindi innanzitutto la metta ci riporta dentro il corpo, in questa forma, e in questo modo possiamo poi ritornare nel mondo. So metta, remember, is really looking at all the qualities we'd expect of a good friend or of ourselves as a good friend. Quindi ricordate, la metta è sviluppare quelle qualità che noi ci aspettiamo da un buon amico o che ci aspettiamo in noi, di trovare in noi stessi come buoni amici. And just as when a friend falls into misfortune, you know, the desire to help arises naturally, compassion. Quando un amico attraversa o ha una sfortuna, allora il desiderio di aiutare sorge naturalmente sotto forma di compassione. In the same way, when a friend is joyful, when a friend has cause to be joyful, well, we're happy for them. Allo stesso modo, quando un amico ha una buona ragione per essere gioioso, per avere gioia, allora noi siamo felici per lui o per lei. So we can see that from this basic relationship, these other qualities arise naturally. Quindi vediamo che da questa relazione di base queste altre qualità sorgono naturalmente. And in the Metta Sutta that we chant, the Buddha likens this metta to a mother with her four children. E nel Metta Sutta che recitiamo al mattino, il Buddha paragona questa relazione di metta a quella che ha una mamma col suo bambino. So for the first child she feels friendliness, she's a friend. Per il primo figlio prova amicizia. For the second one who's sick, she looks after the child, so it's compassion. E per il secondo bambino che è malato, lei prova un senso di cura, e quindi questa è la compassione. To the third child who is successful in exams and things like that, she's happy for. Il terzo figlio ha successo a scuola, negli esami, quindi lei è felice per lui. And when the child needs to leave home and find their own lives, she's equanimous. E quando il figlio deve lasciare la casa, trovare la propria strada, allora lei è equanime. The important thing when we practice metta is not to confuse this development of an attitude with an emotion. Cosa importante quando pratichiamo la metta è di non confondere lo sviluppo di questo atteggiamento, di questa attitudine con un'emozione. So that's why even though we dislike somebody, even dislike them a great deal, we can still have this attitude of goodwill towards them. Ed è per questo che anche se una persona non ci piace, non ci piace affatto, noi possiamo comunque sviluppare un atteggiamento di benevolenza nei suoi confronti. This is really the understanding of love your enemies, huh? E questo è ciò che si intende quando si dice di amare i propri nemici. Yeah, you don't have to like them, huh? Non è necessario che vi piacciano. Yeah. And we develop it through making these intentions strong, determined intentions. E quindi noi la sviluppiamo attraverso queste intenzioni, sviluppando questa forte determinazione. Mm. Like, may you be happy, may you be safe, well and happy. A real strong sort of statement. Che tu possa essere al sicuro, che tu possa essere in buona salute, felice. Quindi sono delle affermazioni molto forti. Some people use color. They send out a color towards the people they're offering their metta to. Alcune persone usano i colori, quindi associano la metta che inviano a una persona con un colore. Some even a sort of warmth from the heart. Alcuni sentono un calore dal cuore. Mm. So whatever method which helps you to direct your intention towards somebody, that will do. Quindi funzionerà qualsiasi metodo che vi aiuti a mandare questa metta nella direzione dell'altra persona. And we shall use the same blessings in the evening, so we should know them off by heart by now. Useremo le stesse benedizioni che ripetiamo la sera, quindi dovremmo a questo punto conoscere la memoria. If not, you should have them on that sheet of paper. Se no, ce le avete sul foglio di carta. But when we come to all beings, we'll do it in six directions. Ma quando poi arriviamo al mandare metta a tutti gli esseri, lo faremo nelle sei direzioni. So all beings before us, behind, left, right, below and above. Quindi quelle davanti, dietro, a destra, a sinistra, sopra e sotto. And after that, we'll do some exercises around forgiveness. Dopodiché faremo degli esercizi sul perdono. Asking for forgiveness. Chiederemo perdono. Forgiving someone. Perdoneremo qualcuno. And that's most difficult, forgiving ourselves. E forse la cosa più difficile, perdoneremo noi stessi. Then there's a small exercise on how to develop determination. Poi faremo un piccolo esercizio su come sviluppare la determinazione. And we'll draw the session to a close with another way of practicing metta. E poi chiuderemo questa sessione con un altro modo di praticare la metta. Now in Vipassana we want to shut down the thinking and imagining mind. In Vipassana noi vogliamo, come dire, spegnere la mente pensante, l'immaginazione. But when we do these sorts of exercises, we use the mind, its imagination and thoughts in order to develop a certain attitude. Ma quando facciamo questa pratica, noi utilizziamo la mente come immaginazione, coi suoi pensieri, per sviluppare questo tipo di atteggiamento. Mm-hmm. It's just like when we, for instance, prepare for an interview, we might go over many times the interview is never what we expect, but at least we have a right attitude. Quando per esempio ci prepariamo per un colloquio di lavoro, noi ripetiamo tante volte le cose che diremo, poi magari il colloquio non va nel modo previsto, però intanto abbiamo sviluppato un atteggiamento. Mm. Whether our metta affects the people whom we're directing it towards, some say it does. Quindi che la metta possa influenzare le persone a cui noi la dirigiamo, alcune persone dicono di sì. But the purpose really, from a spiritual point of view, is to develop the good heart within ourselves. Ma da un punto di vista spirituale la vera, il vero motivo, la vera funzione è quella di sviluppare un buon cuore dentro di noi. Mm. So we can begin. Possiamo cominciare. So just recalling our blessings, may you be safe, well and happy, may you live contented in harmony with the world. Quindi ricordiamoci le nostre benedizioni, che voi possiate essere al sicuro, in buona salute, essere felici, vivere appagati e in armonia con il mondo. So let's bring to mind all these people who've helped us in our lives. portiamo alla mente tutte le persone che ci hanno aiutato nella nostra vita. All those who are near and dear to us. Tutte le persone che ci sono vicine, che ci sono care. Friends, people at work, whomever we wish. Gli amici, persone al lavoro, o chiunque vogliamo. Neutral persons. Persone neutrali. Turning now a stream of goodwill towards ourselves. So rivolgiamo questo flusso di benevolenza verso noi stessi. And into the heart of goodwill, someone we find difficult. E nel cuore della benevolenza, qualcuno che troviamo difficile. And beginning to radiate outwards, first of all to each other, our present spiritual companions. Cominciamo a irradiare l'esterno, innanzitutto gli uni verso gli altri, i nostri amici spirituali, compagni spirituali. Our neighbors and neighborhood. I nostri vicini di casa, tutto il vicinato, il nostro quartiere. and from there radiating outwards to all the people in our country. E da lì irradiamo sempre più in là verso tutte le persone nella nostra nazione. To all the peoples of Europe. Poi a tutti i popoli dell'Europa. To all people on earth. A tutte le persone sulla terra. And when we come to all beings to find an image which works for you. E adesso che arriviamo alla categoria di tutti gli esseri, troviamo un'immagine che ci aiuti. It could be just an infinite space into which you're pouring your loving kindness. Potrebbe essere uno spazio infinito dentro il quale noi riversiamo tutta la nostra gentilezza amorevole. To all beings before us. A tutti gli esseri davanti a noi. All beings behind us. Tutti gli esseri dietro di noi. All beings to our left. Tutti gli esseri sulla nostra sinistra. All beings to our right. Tutti gli esseri sulla nostra destra. All beings below us. Tutti gli esseri sotto di noi. all beings above us. Tutti gli esseri sopra di noi. And finally, to all beings in all directions. Alla fine a tutti gli esseri in tutte le direzioni. This brings to an end the practice of metta. Con questo concludiamo la pratica di metta. Now we can develop this quality of forgivingness. Adesso possiamo sviluppare questa qualità del perdono. Which is part of the quality of compassion. E fa parte della qualità della compassione. So let's begin by bringing to mind somebody who has, whom we have hurt. Cominciamo col portare alla mente una persona a cui noi abbiamo fatto del male. Although it's strange to understand, guilt and shame are the beginnings of compassion. Anche se è una cosa difficile da capire, però il senso di colpa e la vergogna sono proprio l'inizio della compassione. That's when we've done something harmful. E questo nel caso in cui abbiamo fatto qualcosa di dannoso, che ha fatto del male a qualcuno. So we can bring an event to mind or somebody. It doesn't have to be the big one. Quindi possiamo portare alla mente un evento oppure una persona. Non dobbiamo necessariamente scegliere la cosa più grande, più grave. This is to be seen as an exercise. Che questo è da vedere come un esercizio. So now, as that event or person comes to mind, there will come the accompanying emotional states. Man mano che sorgerà, ci ricorderemo questo evento o questa persona, questo sarà accompagnato da uno stato emotivo. So it could be guilt or shame or a sense of remorse. Potrebbe essere un senso di colpa o di vergogna o di rimorso. And when these come up, we'll have our usual reactions. Quando sorgono questi stati mentali, avremo le nostre solite reazioni. We don't like to feel guilt and shame. Non ci piace sentire il senso di colpa e la vergogna. And although remorse is a healing quality, we can sometimes indulge it a bit too much. E sebbene il rimorso sia una qualità che guarisce, terapeutica, noi potremmo trovarci a indulgere un po', lasciarci un po' andare in esso. So, as we bring these things to mind, just be aware of the emotions that turn up and the reactions to those. E quindi quando portiamo a mente questi eventi, queste persone, notiamo le emozioni che li accompagnano e anche le nostre reazioni a quelle emozioni. There's also, of course, still remaining a feeling of righteousness, you know, that we did, that we should have done what we did. C'è sempre anche, a volte può esserci, un senso di aver fatto la cosa giusta, quindi di sentirsi nel giusto. And we tend to indulge that, of course. E anche questo tendiamo a, come dire, a indulgere. So there's those three things, an image, the emotions that come up and reactions, the mental states that come up and reactions. Quindi sono tre cose, c'è l'immagine, gli stati mentali che sorgono e la nostra reazione. So be careful the mind doesn't wander. Quindi state attenti che la mente non divaghi. Make sure that most of the attention is within the body with feelings. Assicuratevi che l'attenzione sia prevalentemente dentro il corpo, con le sensazioni. So, bringing to mind someone whom we have hurt. Quindi portiamo alla mente qualcuno a cui noi abbiamo fatto del male. And we see how we cause suffering for ourselves. Riusciamo a vedere come creiamo sofferenza per noi stessi. Can we acknowledge these attitudes and mental states as being unwholesome, just leading to more suffering? Riusciamo a vedere come questi atteggiamenti, questi stati mentali siano non salutari e che portano ad un'ulteriore sofferenza. So the antidote, of course, is to ask for forgiveness. L'antidoto, ovviamente, è quello di chiedere il perdono. So again, this is again like preparing for an interview. Di nuovo, è come prepararsi a un colloquio di lavoro. Whether this happens or not is not so important. Quindi che abbia successo o meno non ha importanza, cioè che succeda o meno non ha importanza. It's more developing an easy attitude with asking for forgiveness. Piuttosto è sviluppare un atteggiamento, come dire, di agio nel chiedere perdono. So just bring the person to mind and have a conversation with them and bring yourself to asking them to forgive you. Quindi portate alla mente questa persona, immaginate di avere con lui o con lei una conversazione e chiedetegli perdono. Perhaps we can see in them a willingness to be reconciled. Forse che vediate in questa persona una disponibilità a una riconciliazione. Holding out a hand of friendship. Allungategli una mano di amicizia. Can we take it? Oh, questa persona ci allunga la mano, possiamo prenderla? Stringerla. Can we allow ourselves to be forgiven, to be taken back into somebody's heart? Possiamo accettare in noi stessi di essere perdonati e di rientrare nel cuore di qualcun altro. So we can offer them our blessings. May you be safe, well and happy. May you live contented in harmony with the world. Possiamo offrire a questa persona la nostra benedizione. Che tu possa essere al sicuro, stare bene, essere felice. Che tu possa vivere appagato in armonia con il mondo. allowing that image to fade away. Permettete a questa immagine di dissolversi. And let's bring to mind somebody who has hurt us. Adesso portiamo alla mente una persona che ha fatto del male a noi. So it could be an event, it could be just the person. Potrebbe essere un episodio, potrebbe essere la persona. And again we have these reactions come up. E di nuovo abbiamo queste reazioni che sorgono. So there'll be the desire for revenge. Forse il desiderio di vendetta. And also the hurt. E anche la ferita. And when these come up, we find ourselves indulging the desire to avenge ourselves. Quando queste sorgono, ci troveremo a voler stare dentro questo desiderio di vendicarci. And not really wanting to feel the hurt, it's against our pride. E non vogliamo sentire questa ferita, perché va contro il nostro orgoglio. So again, it's just working with the image or with an event. Quindi di nuovo stiamo lavorando con questa immagine, questo episodio. Keeping the attention mainly in the body to feel these reactions. Teniamo l'attenzione principalmente nel corpo per poter sentire le reazioni. Being aware of our relationship to those. Cerchiamo di essere consapevoli della nostra relazione a questi. So this is a bit like a guided vipassana. Questa è un po' una vipassana guidata. So we're just observing, feeling, experiencing what comes up. Qui stiamo osservando, stiamo sperimentando, sentendo, provando quello che sorge. Somebody who has hurt us. Quindi pensiamo a una persona che ci ha fatto del male. We see how we cause suffering for ourselves. Possiamo vedere come creiamo sofferenza a noi stessi. Can we acknowledge these mental states and attitude as unwholesome, just leading to more suffering? Possiamo riconoscere come questi stati mentali e questi atteggiamenti siano non salutari e come ci portino ad una maggiore sofferenza. And the antidote, of course, is to forgive. E ovviamente l'antidoto è quello di perdonare. So forgiving someone doesn't mean that we want to forget it. Perdonare qualcuno non significa che vogliamo dimenticarci del fatto. That would just be a way of suppressing it. Perché quello sarebbe solo un modo di sopprimerlo. We're not trying to excuse them either. E neanche stiamo cercando di scusarli. In a sense, because we always consider our revenge as a form of punishment, we get the feeling that we're letting them off. E quindi per il fatto che noi riteniamo sempre che la vendetta sia una forma di punizione, abbiamo l'impressione come se li in qualche modo li condonassimo. But the process of forgiveness is simply emptying the heart of vengeful anger and hurt. Ma il processo del perdono è semplicemente liberare il cuore da questo senso di vendetta, la rabbia, il senso di essere stati feriti. So let's see if we can bring the person to mind, have a conversation with them. We can say how much they hurt us and bring ourselves round to forgiving them. Vediamo se riusciamo a far sorgere nella mente questa persona e prendere una conversazione e spiegare come ci hanno fatto del male. Vedere se possiamo portarci a perdonare. Perhaps we can see in them a relief at being forgiven. Forse possiamo vedere in loro un senso di sollievo per essere stati perdonati. Can we offer them the hand of friendship? Possiamo offrire loro la mano dell'amicizia. Take them back into our hearts. Riportarli nel nostro cuore. And offering them our blessings. Auguriamo loro le nostre benedizioni. Allowing that image now to fade away. Adesso permettiamo a questa immagine di dissolversi. And turning our attention towards ourselves. E rivolgiamo l'attenzione a noi stessi. So now there are two contemplations which help us to forgive ourselves. Sono due contemplazioni che ci aiutano a perdonarci. And they are concerned both with dependence origination and karma. Entrambe hanno a che vedere con la originazione dipendente e il karma. So remember, all the mistakes we've made, all the unwholesome things we've done has arisen because of a mistake. Quindi ricordate che tutte le cose non salutari che abbiamo fatto sono sorte a causa di un errore. Our nature is not essentially unwise. La nostra natura essenzialmente non è saggia. It begins from a position of don't know, makes a mistake, and then very slowly begins to work its way towards wisdom. Comincia da una posizione del non so, quindi fa degli errori, e un po' per volta si avvicina ad una posizione di saggezza. So remember, from the heart's point of view, we begin from a position of innocence. Quindi dal punto di vista del cuore, noi partiamo da una posizione di innocenza. And innocence again is a word from Latin which actually means no harm. No harm. Harm. Harm. Innocenza è una parola che deriva dal latino e significa il non fare del male, non danneggiare. Because of the mistake, we create a lot of mess. Perché l'errore crea molto disturbo. And then we decide enough's enough. And we begin to meditate. Poi decidiamo che adesso basta e cominciamo a meditare. And so the heart begins to purify itself. E il cuore così comincia a purificarsi. And eventually we arrive at immaculacy, purity. E un po' per volta arriviamo a essere immacolati, alla purezza. So that's the trajectory that we're on. E noi siamo proprio su questa traiettoria. We're now on the trajectory that takes us towards wisdom and the purity of the heart. Siamo sulla traiettoria che ci porterà alla saggezza e alla purezza del cuore. From a karma point of view, remember it's very simple. When we do something harmful, harmfulness results in some way or other. Quindi, da un punto di vista karmico, ricordate, se facciamo qualcosa di dannoso, un effetto dannoso sicuramente ci arriverà. And the opposite, when we do good, good will be the result. E allo stesso modo, quando facciamo una cosa buona, il risultato che arriverà prima o poi sarà buono. The important thing about this teaching is that there's absolutely no need for punishment. La cosa importante di questo insegnamento è che non c'è assolutamente bisogno di una punizione. Punishment is always some form of revenge. Punizione è sempre una qualche forma di vendetta. All we have to do is bear the consequences of our actions. L'unica cosa che possiamo fare, dobbiamo fare, è sopportare le conseguenze delle nostre azioni. And when the consequences have gone, that's it, it's finished. E quando le conseguenze sono esaurite, basta, è finito. So, can we bring to mind something we've done to ourselves which has been harmful? Quindi riusciamo a portare alla mente qualcosa che abbiamo fatto a noi stessi, che è dannosa, che ci ha fatto male. How do you feel about that? Come ci sentiamo a questo riguardo? Can we allow that feeling to express itself? Possiamo permettere a questa sensazione di esprimersi? Without indulging it. Ma senza starci troppo dentro, senza indulgere. So we may have. We may feel angry towards ourselves. Potremmo sentirci arrabbiati con noi stessi. We may have pity, self-pity. Potremmo avere un senso di autocommiserazione. We may be making excuses. Forse troviamo delle scuse. So again, it's a case of turning that compassion towards ourselves. Di nuovo si tratta di rivolgere questa compassione verso noi stessi. Talk to ourselves in a kindly way, bring ourselves to forgiving ourselves. Parliamoci in un modo gentile e portiamoci a un punto in cui ci perdoniamo. And a determination not to do that again. Poi mettiamo un proposito di non farlo più. There's a formula which might be helpful. C'è una formula che potrebbe aiutarci. Whatever harm I have done to myself. Qualunque danno io abbia fatto a me stessa. By way of greed, hatred and delusion. A causa dell'avidità, dell'odio o dell'illusione. Intentionally, habitually, unintentionally. Intenzionalmente o abitualmente o non intenzionalmente. I'm sorry for it. me ne dispiace. And I determine not to behave like that in future. E mi impegno a non comportarmi più così in futuro. Let's offer ourselves our blessings. Adesso offriamo a noi stessi le nostre benedizioni. So this brings to an end our little exercises around forgiveness. E con questo giungiamo alla conclusione dei nostri esercizi sul perdono. So now there's a very short exercise on how to develop determination. Adesso un esercizio molto breve su come sviluppare la determinazione, l'impegno. There are four steps to this. Quindi è diviso in quattro fasi. The first one is I am able to develop virtue to resist temptation. La prima è che io sono in grado di sviluppare una virtù o di resistere una tentazione. Then we have to take personal responsibility. I ought to. Quindi dobbiamo assumerci una responsabilità personale, quindi usiamo il dovremmo. Then sometimes you have to cajole the heart, you have to encourage the heart. I want to. Poi dobbiamo un po' coccolare o incoraggiare il nostro cuore. Diciamo io voglio. And then finally, when the occasion arises, I will. It's a very strong determination. E infine, diciamo, quando l'occasione sorgerà, io questo lo farò. I will resist temptation, I will develop virtue. Io resisterò alla tentazione, io svilupperò la virtù. So if we can bring to mind a trait within us that we see as unwholesome. Quindi portiamo alla mente un tratto della nostra personalità o che un difetto che abbiamo dentro di noi. And just gently speak into your own heart. E facciamo in modo che, come se ci parlassimo dentro il nostro cuore. I can resist that temptation. Io posso resistere a quella tentazione. I ought to, I want to, and when it arises I will resist. Io dovrei farlo, io voglio farlo, e quando si presenta l'occasione lo farò di resistere a quella tentazione. In the same way we can bring a virtue to mind that we want to develop. Allo stesso modo possiamo portare alla mente una qualità, una virtù che vogliamo sviluppare. I can develop that virtue. Io posso sviluppare quella virtù. I ought to, I want to, and when the occasion arises, I will. Io dovrei, io lo voglio fare. E quando si presenterà l'occasione, io lo farò di sviluppare quella virtù. So we can draw our practice to a close with a slightly different way to develop metta. Possiamo aggiungere alla conclusione di questa pratica facendo un'altra pratica di metta, praticando la metta in un altro modo. So we gently repeat these phrases into our hearts. Quindi dolcemente ripetiamo queste frasi nel nostro cuore. May I be free of greed and selfishness.